Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Mellis. Settimana scorsa si è tenuta l'edizione 2012 del forum organizzato ogni anno dal CIG, il Comitato Italiano Gas, l'ente a cui è affidata la regolamentazione tecnica del settore del gas. Al centro del forum i contatori del gas intelligenti, una partita in cui l'Italia vuole arrivare prima al mondo, come già accaduto per il settore dell'elettricità con gli oltre 35 milioni di contatori intelligenti già installati, magari insomma non ancora utilizzati pieno, ma intanto ce li abbiamo. E ora pare che sia il turno del gas. Ci facciamo spiegare tutto da Sergio Ghia, presidente della Commissione Misura e Distribuzione del CIG, che ho incontrato proprio in occasione del forum. Per iniziare gli ho chiesto quali sono i benefici attesi. Sentiamo. I benefici che ci aspettiamo sono innanzitutto di metterci all'avanguardia anche nel sistema gas, parallelamente a quello che è stato fatto nel sistema elettrico. Di conseguenza poter rendere all'utente, al cliente finale, l'accesso ai suoi dati di consumo, l'accesso alle sue fasce tariffarie nel caso vengano riproposte come è stato fatto nel sistema elettrico. Quindi insomma, un primo beneficio è la visibilità che lo stesso consumatore del gas ha sui propri consumi. Perfetto. E questo è evidente. Ce l'avrà la stessa visibilità anche il distributore di gas. Avrà la stessa visibilità anche il distributore di gas. Forse la fatturazione migliora, no? Allora, uno degli obiettivi conseguenti a questo è quello di avere una fatturazione, diciamo così, migliorata, cioè fatta sugli effettivi consumi, quindi con un ricorso alle stime molto minore di quello che viene fatto tuttora, di avere una lettura puntuale del misuratore di gas, cosa che in questo momento non sempre si riesce a avere perché molti dei nostri misuratori sono in casa e quindi vengono la lettura manuale in casa, chiaramente necessita la disponibilità del cliente, cosa che non sempre si riesce ad avere. E in ultimo, ma secondo me in primo non in ultimo, la disponibilità della lettura del consumo consente di potersi gestire in casa propria un risparmio energetico. Ecco, per esempio sarà possibile avere uno schermo che riporta magari sulla televisione, magari non domani, ma avere le letture in real time, in tempo reale dei propri consumi. Ci si riesce a regolare in questo modo? Questo può essere anche inventato un dispositivo comune che contenga anche gli altri tipi di energia. In ogni caso comunque un cruscotto energetico. Senta, un altro aspetto molto importante è quello della sicurezza, perché oltre a leggere i consumi di gas sarà possibile interrompere il flusso di gas da remoto, almeno questo è uno dei, diciamo, degli obiettivi che ci interessa. Questo è un tema molto delicato e un po' particolare. Innanzitutto è un tema che non riguarda tutti i consumatori, ma riguarda solo i consumatori ad uso residenziale, perché l'autorità ha previsto nel suo contesto deliberatorio, ha previsto di inserire l'elettrovalvola soltanto per i contatori fino a comportata massima fino a 10 metri cubi, il che vuol dire residenziale oppure piccolo commercio. Insomma, è comunque previsto che questa elettrovalvola non sia un dispositivo di sicurezza, quindi non debba necessariamente, obbligatoriamente, possa anche essere utilizzato come un dispositivo di sicurezza. La sua prima funzione quale sarebbe? La sua prima funzione è quella di chiusura in caso di cambio cliente, morosità e quant'altro. Ecco. È una funzione di carattere commerciale. Ma questo, se non sbaglio, è dovuto al fatto che oggi c'è uno strano regolamento per cui è possibile, è prevista la chiusura da remoto del gas per ragioni di morosità, ma non è prevista per ragioni di sicurezza. È una questione di norma, tra l'altro anche insomma, abbastanza sorprendente. È una questione, sì, è una questione di regolamentazione, ma dietro c'è anche una questione legale comunque, perché in ogni caso il contatore ha a monte una valvola che quella è di sicurezza. In questo caso si è ritenuto non ancora maturo la tecnologia, il terreno per mettere una sicurezza di tipo automatico, perché quella che dicevo prima, che è a monte, è manuale. Il vero punto gas chiuso è l'intervento del distributore che chiude la valvola, monta il contatore e la sigilla. Ecco, però questo è l'intervento in sicurezza. Immagino che avere una forma di automatismo che consenta, scoppia un incendio, ai vigili del fuoco di con una telefonata far chiudere un po' di valvole del gas, sicuramente, insomma, mi sembra sì, una cosa sicuramente interessante. Sì, sicuramente sì. È qualcosa che si potrà fare. Sicuramente sì, non ci sono ancora gli obblighi, ci sono le possibilità in questo momento. Come mai è così innovativo mettere in piedi un sistema di questo genere, no? E tutto sommato uno dice, prendo un cavo, lo mando al mio bel contatore del gas, da qui passeranno le informazioni, passeranno i comandi per aprire e chiudere l'elettrovalvola, eccetera, eccetera. Però non è così semplice. No, non è così semplice, perché a differenza del contatore elettrico, dove l'alimentazione è a bordo contatore per definizione, il contatore gas a bordo per definizione ha il gas e non ha l'energia elettrica per produrre tutte queste... E non ce la deve avere. E non la deve avere per motivi di sicurezza, per poter fare in modo di fare tutti questi processi di gestione della misura, della chiusura della valvola, della sicurezza e quant'altro. E quindi più o meno la soluzione tecnica come possiamo immaginare che sarà configurata? Allora, la soluzione che si sta configurando, quale essere la più semplice in questo momento, è: abbiamo il contatore del gas, ha all'interno una sua batteria elettrica, una batteria di generazione elettrica, la batteria alimenta una scheda di gestione del contatore, quindi scheda che provvede a acquisire letture, a incasellarle nelle varie fasce, nei vari periodi, a mantenerle memorizzate per un certo periodo e infine a trasmetterle al sistema centrale di acquisizione, che è a casa del distributore. Ecco, questa trasmissione avviene con dei canali che sono più o meno quelli telefonici. La trasmissione, no? può avvenire con il sistema più semplice via telefonica, quindi fisicamente all'interno del contatore c'è una SIM come quelle che abbiamo nei nostri telefoni, e queste periodicamente si collegano col sistema centrale. Un sistema più complesso, però meno oneroso poi in termini generali, è invece quello di creare delle isole, per cui un certo numero di contatori si attestano via radio a quel punto su un concentratore di zona, di palazzo, di quartiere, come lo vogliamo chiamare, e sarà poi il concentratore che trasmette con la scheda SIM al sistema centrale i dati di tutti i contatori che vede sotto. Al di là del côté tecnologico, la partita dei contatori smart per il gas è molto delicata. Il rischio di essere in anticipo sui tempi, cosa che realisticamente potrebbe portare a un'infrastruttura troppo costosa. Questa è una delle critiche che i distributori di gas muovono all'autorità che ha stabilito, regolamentando la necessità di arrivare a questi contatori intelligenti per il gas. D'altronde è certo che per implementare il sistema bisognerà mettere a punto tecnologie ad hoc che per ora non sono disponibili sul mercato. Saremo noi i primi a farlo, cosa che però ci porrebbe un passo avanti anche nello sviluppo industriale di questo settore tecnologico. Insomma, il bilancio tra i benefici e i costi, teniamo presente che alla fine sarebbero comunque consumatori a pagare, non è affatto chiaro. Vi terremo aggiornati su come andrà a finire. Noi ci fermiamo qui. Appuntamento a domani.